Il terzo anello. Ad alta voce. Piero Baldini legge Il piacere di Gabriele D'Annunzio. La mattina del 20 maggio Andrea Sperelli risaliva il corso inondato dal sole quando si sentì chiamare innanzi al portone del circolo. Stava sul marciapiede un crocchio di gentiluomini amici, godendo il passaggio delle signore e malignando. C'era Giulio Musellaro con Ludovico Barbarisi, con il duca di Grimiti, con Galeazzo Secinaro. C'era Gino Bomminaco. C'era qualche altro. «Non sai il fatto di stanotte?» gli domandò il Barbarisi. «No, quale fatto?» «Don Manuel Ferres, il ministro del Guatemala. Ebbene, è stato sorpreso in pieno gioco mentre barava.» Lo Sperelli si dominò, quantunque alcuno dei gentiluomini lo guardasse con una certa curiosità maliziosa. «E come? Galeazzo era presente, anzi giocava allo stesso tavolo.» Il principe Secinaro si mise a raccontare le particolarità. Andrea Sperelli non affettò l'indifferenza. Ascoltava anzi con un'aria attenta e grave. Disse infine: «Mi dispiace molto.» Rimase pochi altri minuti nel crocchio. Salutò quindi gli amici per andarsene. «Che via fai?» gli domandò il Secinaro. «Torno a casa. Ti accompagno per un tratto.» Si incamminarono in giù, verso la via dei condotti. Il corso era un lietissimo fiume di sole, dalla piazza di Venezia alla piazza del Popolo. Le signore, in chiari abbigliamenti primaverili, passavano lungo le vetrine scintillanti. Passò la principessa di Ferentino con Barbarella Viti sotto una cupola di merletto. Passò Bianca Dolcebuono, passò la giovine sposa di Leonetto Lanza. Sull'angolo della via dei condotti scorsero Elena, che seguiva il marciapiede sinistro lungo le vetrine giapponesi, con quella sua andatura molle e ritmica e affascinante. «Donna Elena», disse Galeazzo. Ambedue la guardarono. Ambedue sentirono il fascino di quell'incesso, ma lo sguardo di Andrea penetrò le vesti, vide le forme note, il dorso divino. Quando la raggiunsero la salutarono insieme e passarono oltre. Ora essi non potevano guardarla ed erano guardati, e fu per Andrea un supplizio nuovissimo quel camminare a fianco di un rivale sotto gli occhi della donna agognata, pensando che i terribili occhi si dilettavano forse di un confronto. Egli medesimo si paragonò mentalmente al Secinaro. Costui aveva il tipo bovino di un lucio vero, biondo e cerulo. Egli rosseggiava tra la copia magnifica dell'oro una bocca di nessuna significazione spirituale, ma bella. Era alto, quadrato, vigoroso, di un'eleganza non fine, ma disinvolta. «Ebbene?» gli domandò Andrea, spinto all'audacia da una invincibile smania. «È a buon punto l'avventura?» Egli sapeva di poter parlare in quel modo a quell'uomo. Galeazzo gli si volse con un'aria tra attonita e indagatrice, poiché non s'aspettava da lui una simile domanda, e tanto meno in un tono così frivolo, così perfettamente calmo. Andrea sorrideva. «Ah, da quanto tempo dura il mio assedio?» rispose il principe barbato. «Da tempo immemorabile, a varie riprese e senza fortuna. Arrivavo sempre troppo tardi. Qualcuno m'aveva già preceduto nell'espugnazione, ma non mi sono mai perduto d'animo. Ero convinto che prima o poi sarebbe venuto il mio turno. Dunque, avrò io, spero, l'ambitissimo onore d'essere iscritto dopo te nella lista.» E gli ruppe in un riso un po' grosso, mostrando la dentatura candida. Si separarono nella piazza di Spagna, a piè della scala. E come Elena attraversava la piazza dirigendosi verso la via dei due macelli per salire alle quattro fontane, il Secinaro la raggiunse e l'accompagnò. Andrea, dopo lo sforzo della simulazione, si sentiva pesare il cuore su per la scala, orribilmente. Credeva di non poterlo trascinare alla sommità. Ma egli era sicuro ormai che in seguito il Secinaro gli avrebbe tutto confidato, e quasi gli pareva d'aver ottenuto un vantaggio. per una specie di ubriachezza, per una specie di follia datagli dall'eccesso della sofferenza, egli andava ciecamente intorno a torture nuove, e sempre più crudeli, e sempre più insensate, aggravando e complicando in mille modi le condizioni del suo spirito, passando di pervertimento in pervertimento, di aberrazione in aberrazione, di atrocità in atrocità, senza potersi più arrestare, senza avere un attimo di sosta nella caduta vertiginosa. Egli era divorato come da una febbre inestinguibile che facesse schiudere col suo calore negli oscuri abissi dell'essere tutti i germi delle abiezioni umane. L'inganno medesimo lo legava forte alla donna ingannata. Il suo spirito era così stranamente adattato alla mostruosa commedia che quasi non concepiva più altro modo di piacere, altro modo di dolore. Quella incarnazione di una donna in un'altra non era più un atto di passione esasperata, ma era un'abitudine di vizio e quindi un bisogno imperioso, una necessità. E l'istrumento inconsapevole di quel vizio era divenuto quindi per lui necessario, come il vizio medesimo. Per un fenomeno di depravazione sensuale, egli era quasi giunto a credere che il real possesso di Elena non gli avrebbe dato il godimento acuto e raro datogli da quel possesso immaginario. Egli era quasi giunto a non poter più separare, nell'idea di voluttà, le due donne. Perciò egli non resse al pensiero che Maria, dalla ruina di Don Manuel Ferres, gli fosse tolta. Quando verso sera Maria venne, egli subito s'accorse che la povera creatura ignorava ancora la sua disgrazia, ma il giorno dopo ella venne ansante, sconvolta, pallida come una morta, e gli singhiozzò tra le braccia nascondendo il viso. «Tu sai!» La notizia s'era sparsa. Lo scandalo era inevitabile, la ruina era irrimediabile. Seguirono giorni di supplizio disperati, in cui Maria, rimasta sola dopo la partenza precipitosa del baro, abbandonata dalle poche amiche, assaltata dai creditori innumerevoli di suo marito, perduta in mezzo alle formalità legali dei sequestri, in mezzo agli usceri, agli usurai e ad altra gente vile, diede prova di una eroica fierezza, ma senza riuscire a salvarsi dal crollo finale che schiacciò ogni speranza. Ed ella non volle dall'amante alcun aiuto. Ella non parlò mai del suo marito all'amante, che le rimproverava la brevità delle visite d'amore. Non si lamentò mai. Seppe ancora trovare per lui un sorriso men triste. Seppe ancora obbedire ai capricci, concedere appassionatamente il suo corpo alle contaminazioni e fondere sul capo del carnefice le più calde tenerezze dell'anima sua. Tutto intorno a lei cadeva. Il castigo era piombato improvviso. I presentimenti dicevano il vero. Ed ella non si rammaricò di aver ceduto all'amante, non si pentì di essersi data a lui con tanto abbandono, non rimpianse la sua purità perduta. Ella ebbe un solo dolore, più forte d'ogni rimorso e d'ogni paura, più forte d'ogni altro dolore, e fu al pensiero di doversi allontanare, di dover partire, di doversi dividere dall'uomo che era per lei la vita della vita. «Io morirò, amico mio, vado a morire lontana da te, sola sola. Tu non mi chiuderai gli occhi. Io non ti lascerò morire. Tu sarai ancora mia per lungo tempo. Il nostro amore avrà ancora giorni felici». Egli le parlava di un prossimo avvenire. Si sarebbe stabilito a Firenze. Di là sarebbe andato spesso a Siena sotto pretesto di studi. Il loro amore misterioso avrebbe avuto un nido nascosto in una via deserta o fuori le mura, nella campagna, in una villa ornata di maioliche robiesche, circondata di un verziere. Ella avrebbe saputo trovare un'ora per lui. Qualche volta anche sarebbe venuta a Firenze per una settimana di felicità. Avrebbe portato il loro idillio sulla collina di Fiesole, in un settembre mite come un aprile, e i cipressi di Montughi sarebbero stati clementi, come i cipressi di Schifanoia. Fosse vero, sospirava Maria. Non mi credi? Sì, ti credo. Ma il cuore mi dice che tutte queste cose troppo dolci non esciranno dal sogno. Ella voleva che Andrea la reggesse a lungo sulle braccia e rimaneva appoggiata contro il petto di lui senza parlare, raccogliendosi tutta come per nascondersi, col movimento e col brivido di una persona malata. Chiedeva ad Andrea carezze spirituali, quelle che nel suo linguaggio intimo ella chiamava carezze buone. Ella pregava, quasi ferita dal crudo desiderio di Andrea. No, amore. Mi sembra che tu sia più vicino a me, più stretto a me, più confuso con il mio essere, quando mi ti siedi accanto, quando mi prendi le mani, quando mi guardi in fondo agli occhi, quando mi dici le cose che tu solo sai dire. Ella pregava, umile, sommessa, temendo di dispiacergli. Ella non faceva che evocare memorie, memorie, memorie, passate, recenti, con le particolarità più minute, ricordandosi dei gesti più lievi, delle parole più fuggevoli, di tutti i piccoli fatti più insignificanti che per lei avevano avuto un significato. Il suo cuore tornava con maggior frequenza ai primissimi giorni di Schifanoia. Una sera Andrea le domandò, pensando al marito, «Da che io ti conosco, tu sei stata sempre tutta mia. Taci, sempre tutta tua!» Ed egli, che in questo non aveva creduto a nessuna delle sue amanti adultere, le credette. Mancavano all'addio pochissimi giorni. Miss Dorothy aveva condotto Delfina a Siena ed era tornata per aiutare la signora negli ultimi più gravi fastidi e per accompagnarla nel viaggio. A Siena, in casa della madre, la verità non era nota. Anche Delfina non conosceva nulla. Maria s'era limitata a mandare la notizia di un richiamo improvviso che Manuel aveva avuto dal suo governo. E s'apparecchiava a partire. S'apparecchiava a lasciare le stanze piene di cose dilette in mano dei periti pubblici che già avevano scritto l'inventario e avevano stabilito la data dell'incanto. 20 giugno, lunedì, alle 10 del mattino. La sera del 9 giugno, sul punto di separarsi da Andrea, ella cercava un suo guanto smarrito. Nel cercare, ella vide sopra un tavolo il libro di Shelley, il medesimo volume che Andrea le aveva prestato al tempo di Schifanoia, il caro e triste volume in cui ella aveva segnato con l'unghia i due versi «E dimenticami, perché io non potrò mai essere tua». Ella lo prese con una commozione visibile, lo sfogliò, trovò la pagina, i segni dell'unghia, i due versi. «Mai», mormorò scotendo il capo, «ti ricordi? E sono passati 8 mesi appena». Restò un poco pensosa, sfogliò ancora il libro, lesse qualche altro verso. «È il nostro poeta», soggiunse. «Quante volte m'hai promesso di condurmi al cimitero inglese? Ti ricordi? Dovevamo portare i fiori al sepolcro. Vuoi che andiamo? Conducimi prima che io parta. Sarà l'ultima passeggiata». Egli disse, «Andiamo domani». Andarono, quando il sole era già sul declinare. Nella carrozza coperta ella teneva sulle ginocchia un fascio di rose. Passarono di sotto all'Aventino arborato. Intravidero i navigli carichi di vin siciliano, ancorati nel porto di Ripa Grande. In vicinanza del cimitero discesero. Percorsero un tratto a piedi fino al cancello, taciturni. Maria sentiva in fondo all'anima che ella non andava soltanto a portar fiori sul sepolcro di un poeta, ma che andava a piangere in quel luogo di morte, qualcosa di sé, irreparabilmente perduto. La morte è qui. Ha messo la sua impronta, il suo suggello, su tutto ciò che noi siamo, e su tutto ciò che sentiamo, e su tutto ciò che conosciamo e temiamo. Da prima muoiono i nostri piaceri, e quindi le nostre speranze, e quindi i nostri timori. E quando tutto ciò è morto, la polvere chiama la polvere, e anche noi moriamo. Il cimitero era solitario. Dalla cupa mole dei cipressi scendevano un'ombra misteriosa e una pace religiosa, e quasi una dolcezza umana, come dal duro sasso scende un'acqua limpida e benefica. Quella regolarità costante delle forme arboree e quel candor modesto del marmo sepolcrale davano all'anima un senso di riposo grave e soave. I rosai sfogliavano ad ogni fiato di vento, spargendo sull'erba la loro neve odorante. Gli eucalipti inchinavano le pallide capellature, che or sì or no parevano argente, e il silenzio era interrotto a quando dal grido di qualche uccello disperso. Andrea disse, indicando il sommo dell'altura: «Il sepolcro del poeta è lassù, in vicinanza di quella rovina a sinistra, sotto l'ultimo torrione». Maria si sciolse da lui per salire su per i sentieri angusti, tra le siepi basse di mirto. Ella andava innanzi e l'amante la seguiva. Ella aveva il passo un poco stanco, si soffermava ad ogni tratto si volgeva indietro per sorridere all'amante. Era vestita di nero, portava un velo nero sul viso che le giungeva fino al labbro superiore. Il suo mento ovale era più bianco e più puro delle rose che ella portava in mano. Giunsero tra le siepi basse di mirto fino all'ultimo torrione a sinistra, dov'è il sepolcro del poeta. Il gelsomino che s'arrampica per l'antica rovina era fiorito, ma delle viole non rimaneva che la folta verdura. Le cime dei cipressi giungevano alla linea dello sguardo e tremolavano, illuminate più vivamente dall'estremo rossor del sole che tramontava dietro la nera croce del Monte Testaccio. Una nuvola violacea, orlata d'oro ardente, navigava in alto, verso l'Aventino. Maria disse ad Andrea, mossa da un pensier delicato: «Scioglimi il velo!» Egli si appressò, arrovesciando un poco il capo, perché egli le sciogliesse il nodo sulla nuca. Le dita di lui le toccavano i capelli, che quando erano sparsi parevano vivere come una foresta di una vita profonda e dolce, all'ombra dei quali egli aveva tante volte assaporata la voluttà dei suoi inganni e tante volte evocata un'immagine perfida. Ella disse «Grazie». E si tolse il velo di sulla faccia, guardando Andrea con occhi un poco abbagliati. Ella appariva molto bella. Il cerchio intorno alle occhiaie era più cupo e più cavo, ma le pupille brillavano di un fuoco più penetrante. Le ciocche dense dei capelli aderivano alle tempie come ciocche di giacinti bruni, un po' violetti. Il mezzo della fronte scoperto, libero, splendeva nel contrasto di un candor quasi lunare. Tutti i lineamenti s'erano affinati. Avevano perduto qualche parte della loro materialità alla fiamma assidua dell'amore e del dolore. Ella avvolse al velo nero gli steli delle rose, annodò le estremità con molta cura, poi aspirò il profumo quasi affondando il viso nel fascio e poi depose il fascio sulla semplice pietra ov'era inciso il nome del poeta. E il suo gesto ebbe un'indefinibile espressione che Andrea non poté comprendere. «Come le hai avute quelle rose?» domandò egli. Ella gli sorrise ancora, ma con gli occhi umidi. «Sono le tue, quelle della notte di neve, rifiorite stanotte. Non ci credi? Si levava il vento della sera e il cielo dietro la collina era tutto di un color diffuso d'oro, in mezzo a cui la nuvola discioglievasi come consunta da un rogo. I cipressi in ordine su quel campo di luce erano più grandiosi e più mistici, tutti penetrati di raggi e vibranti nei culmini acuti. La statua di Psiche in cima al viale medio aveva assunto un pallore di carne. Gli oleandri sorgevano in fondo come mobili cupole di porpora. Su la piramide di Cestio saliva la luna crescente per un ciel glauco e profondo, come l'acqua di un golfo inquiete. Essi discesero lungo il viale medio fino al cancello. Maria si strinse al braccio dell'amante, non reggendo più all'angoscia, sentendosi ad ogni passo mancare il suolo, credendo di lasciare sulla via tutto il suo sangue. E appena fu nella carrozza, ruppe in lacrime disperate, singhiozzando sulla spalla dell'amante. «Io muoio!» Ma ella non moriva. E sarebbe stato meglio per lei se ella fosse morta. Piero Baldini ha letto Il piacere di Gabriele D'Annunzio, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it.